Europa 24. E un saluto da Anna Miglioratti. Per la prima volta nella storia dell'Unione Europea è un uomo dell'ex est sovietico alla guida di un'istituzione europea. Dopo l'addio di Van Rompuy a prendere le redini del Consiglio Europeo, il polacco Donald Tusk è apparso oggi non poco emozionato. This is a special day. A new president is taking office. Una giornata speciale, dice il belga Herman Van Rompuy, è la giornata in cui si insedia un presidente che viene da un paese il quale 25 anni fa, o poco più, era separato dall'Unione, dalla cortina di ferro. Dunque il belga passa il testimone al polacco Donald Tusk, leader indiscusso in patria, dove ha guidato il governo per 7 anni, considerato il protagonista della ripresa economica, prende le redini del Consiglio europeo. Multilingue, abile mediatore, infaticabile negoziatore, il primo, leader decisionista e accentratore senza particolare abilità linguistiche, il secondo, un passaggio di consegna avvenuto questa mattina a Bruxelles, così ha esordito Tusk. Oh my God, yeah. Today is my first day in office as president of the European Oggi è il mio primo giorno di lavoro come presidente, ha detto, e se voi siete un po' nervosi per questo cambio, non vi preoccupate, lo sono anch'io, forse più di voi, ma passerà. A little nervous too. Maybe more than you. But it will pass. Credo profondamente nell'Europa, poi ribadito Tusk, salvare la nostra civiltà è la sfida principale. Alessandra Schepisi, Radio 24, il Sole 24 Ore. E con oggi inizia anche il conto alla rovescia dell'ultimo mese di presidenza italiana dell'Unione Europea. Sono soddisfatto, ha detto da Roma Matteo Renzi, presidente del turno all'apertura del COSAC. Bene, dice il piano Juncker per gli investimenti, ma aggiunge, non basta. O l'Europa cambia verso nella propria direzione economica, oppure l'Europa corre il rischio di diventare la Cenerentola dei paesi globali. Noi vogliamo un'Europa che sia fedele al patto di stabilità, ma che si ricordi che quel patto non si chiama soltanto patto di stabilità, si chiama patto di stabilità e di crescita. Ha un nome e un cognome quel patto, non ha soltanto un nome. Primo dicembre alla via oggi la missione europea in Ucraina, missione di assistenza alla riforma del settore della sicurezza, compresi la polizia e il settore giudiziario. Il mandato è di 2 anni, gli esperti lavoreranno a Kiev, dove oggi ha preso posizione il capo missione l'ungherese Kalman Mizzei. Siamo qui, ha detto, prendendo il suo posto, lo sentite, per aiutare Kiev, come hanno chiesto le autorità ucraine, per costruire una democrazia solida. Intanto però c'è un altro paese spaccato tra Europa e Russia, e quel che emerge dopo il voto in Moldavia, dove i filo occidentali hanno ottenuto la maggioranza attorno al 45% dei voti, ma i due partiti di opposizione filorussa hanno ottenuto circa il 40%. Probabile una grande coalizione tra partiti filo, Unione Europea e comunisti, non ostili all'integrazione con Bruxelles, ma che vorrebbero una revisione dell'accordo di associazione con l'Unione Europea. E a Bruxelles riuniti anche i ministri della salute dell'Europa per parlare di vaccini. In primo piano c'è il caso italiano, ma da Bruxelles arriva un sostanziale appoggio alla campagna di prevenzione in tutto il continente. A parlare il ministro Beatrice Lorenzin come presidente di turno del Consiglio Salute. Il caso che si sta verificando in Italia in questi giorni è tutto da accertare, quindi nelle conclusioni sulle vaccinazioni oggi è una giornata molto importante, perché tutta l'Europa riconosce l'importanza fondamentale delle vaccinazioni come sistema primario di igiene e di sanità pubblica, e noi non possiamo abbassare la guardia soprattutto su alcuni aspetti. Immaginiamo le vaccinazioni per i bambini, ci sono delle campagne non scientifiche portate avanti su internet e sui social media che mettono a repentaglio la salute di milioni di bambini. E allora ci torneremo anche su questo. Un saluto nel frattempo da Anna Migliorati. Come sempre, l'appuntamento con l'Europa a Europa Notte. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.